Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Quindi è decisivo il sostegno a quelle forze dell'intelligence, forze dell'ordine, militari impegnati nell'operazione Strade Sicure, che si impegnano per garantire la nostra sicurezza. Far sentire il Paese unito attorno a queste forze che tutelano la nostra sicurezza, vorrei dire, è altrettanto importante di quanto sia importante il ripetere che i terroristi non ci costringeranno a rinunciare alla nostra libertà. Noi continueremo a batterci per la libertà e questo significa vivere normalmente la nostra dimensione di cittadini europei, di cittadini italiani, di cittadini spagnoli. 18:08 minuti, buonasera a tutti cari ascoltatori, di nuovo in diretta Radio 24 con Si può fare dalle 18 alle 20. Buonasera da Alessio Maurizi con quel che resta di un apparato vocale duramente provato da poche e anche immeritate giorni di ferie e di vacanza, il mare, il sole, il vento della Calabria e l'aria condizionata di cui modestamente mi dico che si esagera ormai abbondantemente ovunque, quindi sono praticamente distrutto, ma ce la faremo con Alessandro Longoni, Matteo Ramelli, Andrea Spenuso in redazione, poi Roberta Frisani in regia. 800 24 00 24 naturalmente per intervenire in diretta. Condizionatori di cui si abusa, però senza entrare nel merito della questione dell'esponente del Movimento 5 Stelle Barbara Lezzi, che qualche giorno fa parlando della crescita in attesa del PIL italiano ha detto tutto dipende dal fatto che è stato più caldo e quindi si sono usati di più i condizionatori, quindi nessuna ripresa, nessun ottimismo renziano, semplicemente ha fatto caldo. Vabbè, questa magari la sentiamo più avanti, però nel frattempo cronaca di questi di oggi: è stato preso dalla polizia, ucciso il sospetto terrorista di Barcellona. Sentiamo il padre di una delle vittime, Umberto Gulotta. È difficile da definire perché in questi momenti diciamo ci si sente completamente vuoti, penso che il come sto dovranno chiedermelo un po' più avanti. Sono il padre della prima vittima italiana dell'evento di Barcellona, quando mia nuora mi ha telefonato con voce rotta mi ha informato che c'era stato un attentato sulle Ramblas e che mio figlio era stato investito in pieno da un furgone che ha investito non sapeva più dirmi quante persone. A quasi un anno dal terremoto nel centro Italia, Vasco Errani non è più il commissario del governo per l'emergenza e per la ricostruzione. Forse ci sarà un altro commissario che però dovrà gestire le cose direttamente con i presidenti di regione, che a questo punto gli enti locali prendono in mano la palla. Gentiloni. L'impianto che è stato predisposto dal Parlamento, dalle ordinanze del commissario di governo, è un impianto che in queste dimensioni non ha precedenza, perché se noi mettessimo insieme il Fondo per la ricostruzione, il contributo dell'Unione Europea, lo stanziamento di 1 miliardo l'anno per 3 anni deciso nella cosiddetta manovra correttiva di aprile, parliamo di numerosi miliardi di risorse disponibili. Ora si dice che io farei questa scelta per delle poltrone. Ora, la dirò così. Chi mi conosce e mi può guardare negli occhi, sa che questo non fa parte della mia storia. Figuratevi se a 62 anni mi metto a fare questi ragionamenti. Ora, chissà se il fatto che non c'è più un commissario, Vasco Errani, che dice non... perché qualcuno gli ha chiesto, non è che si è dimesso o non ha voluto rinnovare il ruolo di commissario perché c'è in vista le elezioni politiche, un ruolo nel nuovo movimento fondato da Bersani e compagnia bella. No, dice Errani, assolutamente no. Ma il punto è un altro. Aiuterà il fatto che non c'è più un commissario, che la palla passa direttamente nelle mani delle regioni, dei presidenti delle regioni come enti attuatori della ricostruzione? Aiuterà tutto questo la ricostruzione, ma anche la gestione della fase di passaggio temporanea? Mancano ancora le casette, le famose casette di legno per molte persone colpite dal terremoto. Aiuterà tutto questo oppure no? 800 24 00 24. Nel frattempo sentiamo Saviano, che è venuto a dire la sua sulla questione ONG. Medici senza frontiere non ha nulla da nascondere. Non può ospitare uomini armati sulle proprie navi. Poliziotti potrebbero andare, ma disarmati. È una regola fondamentale che tutela tutti gli operatori di Medici Senza Frontiere in questo momento presenti in Iraq, in Siria, in Mali, in tutti quei posti dove c'è un conflitto. Perché questo? Semplice. Perché Medici Senza Frontiere è un'organizzazione neutrale. Non prende parte né ai conflitti né in qualche modo alle parti politiche in campo. Quindi sulle navi di Medici Senza Frontiere, negli spazi di Medici Senza Frontiere, nessuna persona armata può essere. Le ONG si pongono il compito di salvare vite. È la Guardia Costiera Italiana che indica alle ONG dove sbarcare. Non sono le ONG a decidere arbitrariamente dove farlo. Le ONG solo nel 2016 hanno salvato 47.000 persone. Sono circa il 40% dei dispersi in mare. Nel Mar Mediterraneo annega una persona ogni due ore. Oh, allora ha ragione Saviano a difendere le ONG, Medici Senza Frontiere. Le altre non possono avere militari a bordo perché, come è stato già detto, è contrario alla loro etica e al loro ruolo di persone che salvano vite umane nel Mediterraneo. Il tema è infuocato come sempre. 800 24 00 24. Ah, poi naturalmente informazione di servizio si può fare, sta per due settimane in questa collocazione oraria, poi torneremo nel weekend quando ripartirà il palinsesto autunnale e tornerà naturalmente la Zanzara come sempre ogni sera con Parenzo e Cruciani. Sentiamo anche sulla questione, le vogliamo sentire sulla questione delle barriere protettive dal terrorismo, da possibili attacchi. Qualcuno dice mettiamo non più delle barriere di cemento, non ripieghiamo, non difendiamoci blindando le città, chiudendoci in questa fanatismo della sicurezza, ma proviamo a fare delle cose diverse. Per esempio, chi propone luoghi ancora più aperti con dell'acqua o delle vasi di piante con degli alberi per rispondere con la bellezza al terrorismo? Penso che sia una buona idea, visto che non creano comunque nessun disagio. Siamo molto contenti, non sono bellissimi, ma pazienza. Cercheremo di decorarli, di fare qualcosa. Per il terrorismo servono altre misure, non è di certo un pezzo di muro che ferma il terrorismo. Diciamo che penso che si rassicurino psicologicamente. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Public display. E allora diamo la buonasera a Stefano Boeri, benvenuto, buonasera. Buonasera. Allora, architetto, ha realizzato il famoso e pluripremiato Bosco Verticale a Milano, ma ha fatto anche tante altre cose. È sua la proposta di mettere, anziché i, lo dicevamo, blocchi di cemento, i cosiddetti jersey, a protezione delle zone più frequentate della città, dei vasi con degli alberi, un modo diverso di proteggere certe zone della città, Boeri, ma che può sembrare anche un po' ingenuo, no? Perché di fronte a una sfida grande come quella della sicurezza rispetto al terrorismo, no? Perché invece lei ha avuto questa idea, quasi a dire non chiudiamoci, non ripieghiamoci, non rinunciamo per blindare le nostre città a quello che è la vita nelle città, alla bellezza, alla movimento, vita, anche all'arte delle città? Ma, vede, tecnicamente un vaso di 2-3 metri di diametro, con un'altezza di 1 metro, 1,20 metri di pieno di terra, è un elemento che da un punto di vista puramente strutturale ha la stessa garanzia di tenuta rispetto alle spinte, come potrebbe essere quello di un mezzo su 4 ruote, di un jersey, anzi, forse ne ha di più. Quindi il punto non è tanto quello di immaginare come meglio proteggersi. Io credo che è giusto proteggersi, però io credo che sia sbagliato cedere, oltre che alla paura e alla paura di attraversare ormai gli spazi pubblici, anche al ricatto di dover vedere, come purtroppo temo potrà essere, le nostre città, le parti più belle delle nostre città, le piazze, i viali, i luoghi pubblici, in qualche modo peggiorare e trasformati in scene quasi da presidio di guerra o da vincolo autostradale, perché poi i jersey, i piromat, questi elementi di dissuasione sono qualcosa che ha pochissimo a che vedere con la storia e la qualità dei nostri spazi storici. Stiamo parlando di centinaia e centinaia di città in Europa che nei prossimi anni, io temo, non solo nei prossimi mesi, dovranno prendere in considerazione degli elementi di protezione. Allora io dico, non si può neanche pensare di vivere rinchiusi dentro a... No, appunto. E un vaso con un albero è un elemento vitale, è un elemento che dà qualità allo spazio. Gli alberi hanno una funzione, oggi in tutto il mondo si cerca di aumentare il numero di alberi nelle città, quindi io dico, rispondiamo non cedendo su questo piano, ma cercando semmai di rilanciare, di pensare che noi possiamo dare più sicurezza, ma al contempo anche dare più qualità, e dare una qualità che gli alberi danno. Gli alberi fanno ombra, aumentano la biodiversità, assorbono le polveri sottili del traffico, producono ossigeno, insomma ci sono delle qualità intrinseche e fruttive. Io voglio già chiedere agli ascoltatori all'800 24 00 24 se la seguono, Boeri, se seguono questa idea, questa idea appunto di rispondere in modo meno ripiegato in qualche modo, no? Forse con meno paura, se ce lo possiamo permettere anche una cosa del genere, oppure qualcuno potrebbe pensare che si tratta di una risposta troppo leggera, inadeguata rispetto magari anche alle sfide. Mi piace dire che evidentemente il terrorismo non si combatte né con i jersey e né con gli alberi, ci sono appena altri strumenti e ci sono, la sfida è talmente gigantesca che sarebbe veramente ingenuo pensare di risolverla ragionando sugli elementi di dissuasione o di sicurezza. Però a parità di qualità di protezione, io credo che avere un albero che appunto genera qualità e sia molto meglio che avere un elemento appunto che utilizziamo nelle autostrade o nei presidi di guerra. E quanto può costare però di più rispetto invece al classico blocco di cemento o alle classiche ringhiere? Perché noi sappiamo che i comuni spesso e volentieri fanno anche i conti con quello che hanno in casa. Ripeto, sto dicendo una cosa di cui c'è la conoscenza: gli alberi costano assai poco, costano pochissimo, costa un po' di più la manutenzione, si tratta di dare acqua agli alberi. Ma io penso, ripeto, che se si tratta di fare un investimento che non ha la durata di qualche giorno o di una settimana, stiamo parlando di una trasformazione che purtroppo, io lo dico con amarezza, ma riguarderà le nostre città e gli spazi pubblici per diversi anni. Speriamo non decine, ma per diversi anni. Certo. Quindi, assolutamente vale la pena, assolutamente vale la pena di non avere Piazza Duomo, Piazza della Signoria, Fori Imperiali trasformati in quasi presidi di guerra o spazi militarizzati dal punto di vista proprio della qualità, perché poi sono spazi che trasmettono loro quella, diciamo, insicurezza che noi vorremmo cercare di evitare. Lei diceva ci sono altre sfide da sicuramente più importanti, no? Per quanto riguarda il contrasto del terrorismo. Una di queste mi viene in mente ha a che fare ancora con il suo lavoro ed è il ruolo delle periferie, perché spesso si sente dire che alcuni di questi terroristi sono, hanno vissuto, sono nati in alcune delle realtà periferiche delle grandi città europee. Voi architetti siete chiamati spesso ad abbellire il centro, no, delle città, però poi ci sono soldi, affluiscono, ci sono grandi progetti. Delle periferie si parla sempre, in campagna elettorale poi spariscono dai radar. C'è qualcosa che non funziona? Che cosa in questo, secondo lei? Se guardiamo bene i luoghi di origine di alcuni di questi terroristi, giovani terroristi, beh, non li troviamo tanto nelle periferie disagiate, nelle banlieue di Parigi, li troviamo a volte anche in quartieri centrali, in quartieri che naturalmente sono quartieri che hanno una particolarità, cioè quella che sono luoghi dove si concentrano famiglie che hanno la stessa origine, la stessa cultura, la stessa fede a volte, cioè in cui manca la varietà, lo scambio con l'altro, che è una delle, diciamo, delle qualità che la città dovrebbe sempre avere, permetterti di avere una tua identità e di scambiare con chi ha un'altra identità, culture, conoscenze, esperienze. Questa possibilità di scambio spesso manca in queste zone dove non c'è integrazione ma c'è segregazione, ma davvero non è un tema di perifericità, perché se guardiamo i quartieri di Bruxelles a cui sono venuti alcuni dei terroristi più efferrati, sono quartieri centrali, stiamo parlando di quartieri del centro di Bruxelles, quindi bisogna stare molto attenti. Il tema della sfida dei prossimi anni per le città è aumentare le possibilità di incontro, di scambio, di varietà in tutte le parti della città, nel centro storico, nei quartieri dell'Ottocento, del Novecento e anche nelle periferie. Senta, le faccio sentire Vasco Errani, il commissario per la ricostruzione, l'emergenza e la ricostruzione del terremoto nel centro Italia, che ha annunciato tra l'altro di lasciare l'incarico, che appunto spiega che cosa succederà adesso. Entreranno, avranno un ruolo maggiore i presidenti delle regioni, le regioni, gli enti locali nella ricostruzione. Le faccio sentire che cosa ha detto oggi. È da tempo che io sottolineo che fatto l'impianto della ricostruzione è il territorio, è la filiera istituzionale del territorio che in primo luogo deve assumere la gestione di questo processo, e io credo che l'impianto lo consenta. Senta, come valuta, voi avete fatto anche dei progetti, tra l'altro siete stati tra i primi forse a riconsegnare la mensa e alcuni ristoranti ad Amatrice qualche giorno fa, giusto? Giusto, giusto. Ecco. Sono 8 ristoranti, una mensa che danno lavoro a più di 100 persone, una cosa che siamo orgogliosi e felici. Però ci sono molti ritardi, grandi ritardi anche questa volta. Come giudica intanto la decisione del governo di muoversi in questo modo? Ma io credo che l'idea di affidare ai comuni e alle regioni il protagonismo nella ricostruzione sia giustissima, sia un'operazione importante, perché dà davvero in mano alle forze locali, ai cittadini e alla società locale il grande compito della ricostruzione, offrendo naturalmente infrastrutture e servizi. Questo non vuol dire che si debba perdere, però su questo voglio essere molto chiaro, un aiuto centralizzato. Io credo che noi ci troviamo di fronte a un sisma che ha colpito un bacino vastissimo, sono 4 regioni, sono più di 8, sono 8 province, più di 130 comuni, e dobbiamo anche immaginare che ci sia da parte dello Stato una struttura centralizzata che funziona da struttura agile, che offre conoscenza, che offre tecniche, che è pronta a intervenire quando i comuni hanno uffici tecnici, come spesso accade, deboli o completamente destrutturati. Quindi l'equilibrio tra il protagonismo locale e la capacità dello Stato di essere presente sempre e dappertutto è un equilibrio difficile, va raggiunto. Ecco, ma voi, dicevamo, siete riusciti, anticipando l'anniversario di un anno dal terremoto, a consegnare la mensa scolastica, alcuni ristoranti ad Amatrice. Come avete fatto? E invece, secondo lei, da dove derivano questi ritardi? Perché ci sono ancora tutti questi ritardi? Qualcuno dice la solita burocrazia, qualcuno accusa l'ANAC, l'autorità anticorruzione, che rallenterebbe. No, io credo che in parte i ritardi derivano anche da una grande attenzione alla legalità, su questo non c'è alcun dubbio. I ritardi derivano dal fatto che questa volta si sono fatte le cose, credo, con grande attenzione a tutte le procedure e quindi ai passaggi istituzionali. Molti di questi ritardi hanno una spiegazione, altri sono anche, se vogliamo, detto francamente, non solo inaccettabili, perché le casette dovevano arrivare prima, io mi auguro che arrivino adesso con tempi rapidissimi. Ripeto, io credo che non bisogna mai far polemiche sulla pelle di chi sta soffrendo, credo che lo sforzo che è stato fatto è uno sforzo importante, credo che il commissario Errani sia stato capace e abbia agito con grande intelligenza. Certo, la cosa non è chiusa qui, cioè siamo ancora davanti a una situazione di grande, grande, grande drammaticità per decine di famiglie, per centinaia di famiglie, e non possiamo in nessun modo pensare che lo Stato adesso lasci alle regioni e ai comuni la responsabilità della ricostruzione. Intanto ci sono un po' di messaggi al 349-238-6666 anche su WhatsApp che rispondono alla sua proposta di appunto mettere dei vasi con degli alberi al posto dei jersey per impedire l'accesso nelle zone a più alta frequentazione delle città in Italia. Messaggi positivi, tutti abbastanza allineati. C'è chi chiede però poi come li spostiamo gli alberi, perché si sa che i jersey poi si spostano. Non c'è nessuna fatica, ci sono oggi dei modi per cui si spostano. Stanno dentro i vasi, quindi si spostano. Sì. Non è questo il problema minore, naturalmente. Senta, invece un'altra cosa le voglio chiedere, poi la salutiamo, in tema di politica più generale, no? Lei è stato assessore a Milano con Pisapia, adesso sì. Pisapia, che sta costruendo un movimento politico alla sinistra del PD insieme, sembra che voglia coinvolgere Tito Boeri, un altro della famiglia Boeri, ha saputo di questa notizia? Io ho un rapporto di grande affetto come fratello e di grande stima, però non parliamo mai l'uno dell'altro. Non commento, ma cosa ne penserebbe però? Non lo vuol dire. No, io non ho nessuna, come dire, credo che mio fratello stia svolgendo un ruolo istituzionale difficilissimo. Presidente dell'INPS, ricordiamolo. Secondo me, ovviamente io stimo molto il lavoro che sta facendo. E basta. Grazie. Beh, lei sarebbe invece interessato a una riedizione di un rapporto con Pisapia o no? Visto com'è finita? No, non sono mai stato praticamente interessato in questi anni, non credo tanto in quel progetto, quindi non sono interessato. Va bene, grazie, buona serata, grazie Stefano mille, Boeri, grazie. Grazie per essere stato con noi. 800 24 00 24, ve lo richiedo, cari ascoltatori, è giusto, come propone Boeri, rispondere al terrorismo senza chiudersi, senza blindare con blocchi di cemento le nostre città, puntando invece alla bellezza, al verde, mettendo dei vasi con degli alberi, ce lo possiamo permettere? Oppure secondo voi si tratterebbe di una risposta troppo leggera e inadeguata alle sfide che abbiamo di fronte? 800 24 00 24 per rispondere tra poco dopo la borsa. Fiera del Levante, riscaldamento a legna e pellet, pftecnologie.it vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, eccoci qua, c'è chi al 349-238-6666 scrive: dite a Boeri che nelle città italiane non riescono a curare quel poco di verde che c'è già. E questa è un'altra storia, ha ragione questo ascoltatore che non si firma, questo è vero, abbiamo chiesto dei costi a Boeri, però se si tratta di fare un investimento in sicurezza sulle città si può scegliere di farlo in un modo o nell'altro. C'è poi chi ricorda, Paolo da Bologna, che a Bologna ci sono già queste aiuole con gli alberi, delle barriere in via Rizzoli, bellissime e rimovibili. Quindi ascoltatori di Bologna, se è vero chiamateci, 800 24 00 24. Andiamo con Giuseppe, intanto, che ci chiama da Milano. Buonasera Giuseppe. Sì, buonasera. Eccolo qua, vai. Sì, tocca buonasera. A te. Sì. Sì, io sono molto d'accordo con ciò che dice l'architetto Boeri, perché poi saranno poi questi architetti che realizzeranno queste cose per noi. Ma io credo che la bellezza sia una cosa importante. L'Italia, l'Europa sono pieni di bellezza. Lasciamo che i nostri turisti vengano a guardare la nostra bellezza, perché sinceramente i New Jersey mi hanno fatto pensare alla signora Sgrena a Callipari. Lasciamole queste cose in altri posti che a noi non ci riguardano, teniamoci la bellezza che è molto più importante. Poi voglio dire, sì, ci saranno anche dei privati che possono sponsorizzare queste cose. Beh, sì, cose. In centro accade già nelle zone del centro. Ecco, sì. Quindi voglio dire, la bellezza, aumentiamo la nostra bellezza, facciamo in modo che quando andiamo a farci delle fotografie non le facciamo sui New Jersey, ma le facciamo su qualcosa di bello. Va bene, grazie Giuseppe, buona serata. E comunque quasi tutti i messaggi sono molto favorevoli a questa proposta, tranne poche critiche. Giancarlo da Mantova. Giancarlo, buonasera. Pronto? Eccolo qua, tocca a te, prego. Sì, ma io volevo dire che bisogna usare la stessa violenza, ma intelligente per rispondere al terrorismo. Violenza nel senso di creare un clima di paura, paura con il controllo delle mail, con il controllo di qualsiasi modo e delle telefonate. Non solo, se devo, se in una moschea c'è viene trovato un terrorista, quella moschea la faccio chiudere, devono essere loro che controllano, si controllano tra loro, ma anche i familiari, c'è un familiare. Beh, no, i controlli assolutamente. Tra l'altro è stato detto che è una di quelle volte nelle quali le famose intercettazioni telefoniche molto usate in Italia dalla magistratura italiana trovano tutti d'accordo, perché sono servite in alcuni casi ad anticipare l'azione di alcuni potenziali terroristi anche nel nostro paese, e ne sono stati espulsi già diverse decine. Quindi questo sì. Sulla questione delle barriere, Giancarlo, invece? Sulle barriere, prima questo, che mettere delle barriere, prima il controllo, cioè risolviamo il problema alla base. Perché comunque massima barriera, ma arriva con un camion l'albero. Cioè, bisogna risolvere il problema a monte, e della mia privacy, se fanno tutti i controlli della navigazione non mi interessa, faccio tutti i controlli che vogliono, l'importante è creare proprio la paura, perché se creiamo che c'è un controllo, insomma, forse il terrorista prima di muoversi sa che la propria famiglia viene mandata via, sa che il proprio viene chiuso, non trova lavoro, perché dopo facciamo la blacklist proprio, ma a livello internazionale anche. Va bene, Giancarlo, bisogna grazie. Essere forti. Grazie, buona serata. Questo naturalmente va fatto, in parte viene anche fatto, e per questo ascoltatore invece deve essere... ma non credo che Boeri dicesse che le due cose sono antitetiche, si tratta solo di valutare laddove devi mettere un blocco di cemento, un cosiddetto jersey, per impedire che un camion possa entrare sparato in Piazza Duomo, invece di metterci quello ci metti un vaso imponente con un albero, con degli alberi dentro. Questa è la diversa proposta che viene fatta. Carlo da Pisa, buonasera. Sono assolutamente d'accordo con l'architetto per quanto riguarda invece di jersey mettere adornare le nostre città con del verde. Sì, è vero che in molte delle nostre città non c'è una cura già nel verde che esiste, ma guardiamo tutte le altre città d'Europa, hanno una percentuale di verde superiore alla nostra. E poi per quanto riguarda gli alberi, ce ne vogliono molti. Adesso non è che con gli alberi delle città si può recuperare quelli che sono gli incendi ogni estate nella nostra penisola, oppure quelle che sono le frane, che sono determinate dalla mancanza a volte di alberi che con le loro radici tengono i terreni scoscesi. Ma a prescindere da questo, per arrivare poi al punto del terrorismo, è difficile capire come essere buoni quando si hanno persone che non hanno nessun limite e hanno una spregiudicatezza di questo tipo. Forse dico una banalità, una cosa stupida, non quella di solamente verificare via sì. internet o sentire le telefonate, eccetera. Ma fare un po' come si faceva nel pianerottolo, un po' le portinaie, tentare di capire chi abbiamo di fianco. Di essere quella parte stupida psicologica per capire un po'. Anche se non credo che sia questo il metodo per arrivare, però dobbiamo tentarle tutte. Va bene, va bene. La vedo molto brutta la cosa. Va bene, grazie, buona serata. C'è un ascoltatore, Walter di Vicenza, che scrive: non servono a nulla queste protezioni, questi terroristi fanno presto a spostare il tiro su altro, ferrovie, navi, autobus, eccetera. Se vogliono colpire non hanno bisogno di continuare a farlo con questo sistema. Già, è vero anche questo, però intanto vaglielo a dire a quelli della Rambla di Barcellona, intanto vaglielo a dire. Allora andiamo con Nico da Vicenza, buonasera. Sì, buonasera. No, sì. Ho ascoltato le conversazioni. Comunque, di fondo, riesco a immaginare che possono essere degli alberi invece che dei New Jersey. Riesco a immaginare che possono essere una cosa rispetto all'altra, però di fondo dobbiamo accettare che ci stiamo difendendo, perché purtroppo è terrorismo e di fondo siamo in guerra. Io la vedo anche un po' così, perché sono un ex militare. Cioè, adesso mettiamo gli alberi al posto dei New Jersey, ma e domani che cosa facciamo? E fra un mese che cosa facciamo? Cioè, dobbiamo renderci conto che forse, a monte del fatto che possa essere più intelligente vedere un albero piuttosto che un pezzo di cemento. È caduto Nico. Andiamo con vediamo un po'. Giuseppe da Pisa, buonasera. Sì, buonasera. No, in effetti volevo fare un commento a proposito della proposta di Boeri, perché in effetti sto ragionando della gradevolezza estetica di una misura di protezione, ma alla fine soprattutto per la forma che ha assunto questo genere di terrorismo, soprattutto nelle ultime circostanze, si tratta ovviamente di misure che mettono una toppa su determinate forme. Assolutamente sì, si tratta di capire se vogliamo mettere questa toppa e vivere per i prossimi anni con transenne, blocchi di cemento in qua e là, oppure già che ci siamo, dice Boeri, mettere qualche cosa di diverso, no? di più bello, di più adatto, forse al centro di una città, di più utile anche da un altro punto di vista, ma che naturalmente non serve questo è ovvio, va da sé, penso che nessuno immagini che con questo si possa sconfiggere di per sé il terrorismo, Giuseppe, no? Sì, certamente, ma diciamo, le forme di infiltrazione e di attacco del terrorismo recentemente possono assumere manifestazioni le più imprevedibili possibili. È chiaro che un jersey non impedisce ad uno stalmanato di fare irruzione di una via con un macete in mano e seminare il panico. Va bene, grazie, buona serata, grazie. Andiamo con Fabrizio che Franco che chiama da Roma. Franco, eccomi, buonasera. Eccomi. Prego. Qua ho tolto il via voce. Sì, sì. Volevo fare una riflessione sul discorso di Saviano e della sua presa di posizione sulle ONG. Rispetto alle ONG, sì. Esatto. Allora, io penso che le ONG siano abituate a lavorare in posti dove la legge non esiste più, dove c'è la legge del più forte, punto. E giustamente si dotano di una loro etica. Ma nel Mediterraneo la legge c'è, è quella del mare, è quella italiana. Per cui non esiste al mondo che la ONG rispetta la propria etica ma non rispetta la legge. E Saviano, che è uno scrittore di buona levatura, perché no? Non l'ho mai visto lavorare un anno a fianco ai ragazzi della nostra Guardia Costiera, ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, che hanno un lavoro meraviglioso. Mai. L'ho visto solo pontificare, ma lui non è Papa Francesco. È vabbè, però sono in tanti a pontificare, no Franco? Questo sì, pontifica, basta. Sono in tanti a pontificare, quasi tutti quelli che pontificano non sono mai stati su una nave ONG che salva i migranti. Nessuno, ma nemmeno Gentiloni, neanche Salvini, nessuno, neanche io e lei. Questo, bravo, io sì, lei forse, io questo lavoro l'ho fatto. Ah ecco, e ce lo racconti un po'. Sono andato a preoccuparmi da ragazzo, quando facevo il militare, a spegnere gli incendi all'Elba, ad assistere i poveri disgraziati che stavano lì e a spegnerli con le mani nude, no, con i Canadair, non c'erano ancora i Canadair nel 73-74, capisci Maurizio? Allora la gente prima di parlare dovrebbe pensarci sempre, soprattutto chi ha la responsabilità di essere un grosso comunicatore come Saviano. Va bene. Dovrebbe pensarci sei volte prima di parlare. E un'altra cosa ancora. Sì, sì. L'etica delle ONG non funziona, perché pure io, secondo la mia etica, preferirei non pagare le tasse. Anzi, non le pago proprio. Facciamo così. La mia etica mi impedisce di pagare le tasse. Se la mettiamo su questo piano, ognuno di noi ha un'etica. Beh, ma che etica? Però scusa Franco, che etica è quella di dire non pago le tasse? Che... Se a loro dicono io non faccio salire, è una scelta di comodo, non è un'etica, è una scelta di comodo. Eppure la loro è una scelta di comodo, parliamoci chiari. Perché come mai adesso non si parla più di sbarchi da quando loro sono scomparsi dalla pubblica piazza? Questo è vero, c'è stato un calo, c'è stato un calo. No, c'è stato un crollo. Può darsi sia stato fisiologico, può darsi sia dovuto invece a questo. Beh, se li andavano a prendere a 2 miglia dalla costa e adesso non possono più andarci, il crollo è diventato verticale. Però attenzione, perché non è che se c'è stato un calo adesso è finita la questione migratoria, non illudiamoci, perché quelle persone saranno ferme in Libia ad aspettare momenti migliori per poi sbarcare, io credo, però staremo a vedere. Grazie Franco, buona serata. 800 24 00 24 ancora qui dopo il traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, il crowdfunding va per la maggiore di questi tempi. Nessuno però aveva pensato di utilizzare la raccolta fondi sul web dal basso per pagare una taglia, una ricompensa a chi denuncia, a chi aiuta a trovare i piromani, quelli che stanno dando fuoco in questo periodo alla costiera amalfitana. L'idea è di Salvatore Aceto, imprenditore del settore dei limoni. Buonasera. Buonasera, buonasera. Che l'ha lanciata in queste ore, dopo che da oltre un mese la costiera amalfitana sta bruciacchiando qua e là, incendi voluti tra l'altro da qualcuno, no? Non sono incendi casuali. Ma credo proprio di no, io non ho la certezza, però certamente c'è qualcosa che non va. E questo è sempre il sospetto, no, che c'è? E c'è sempre, perché c'è da anni che funziona così, e quest'anno c'è un rincrudimento, c'è... È un'escalation impressionante. Cioè, chi è il piromane che appicca il fuoco in costiera amalfitana, secondo voi? Questo io non lo so, perché noi arriviamo sempre ai fatti compiuti. Poi manca a farlo apposta, l'incendio parte sempre dalle 7 di sera, quando c'è un po' di vento, soprattutto quando c'è qualche volta il vento di tramontana. E il fuoco si alimenta, e quindi non è un caso. Il fuoco si alimenta, parte ovviamente gli aerei, o elicotteri non possono intervenire e poi debbono intervenire il giorno successivo, quando abbiamo la fortuna, con tutti gli adempimenti macroscopici che ci hanno imposto, con queste modifiche che hanno imposto ai vari accorpamenti, ed è un casino di burocrazia di carte e praticamente migliaia di... Ma burocrazia di carte per fare che cosa? Lei pensa che per attivare tutta una serie di procedure, le procedure della protezione di civile per poter chiamare i DOS, per poter chiamare l'intervento della regione Campania, e parliamo della Campania per non parlare di altre regioni, e di conseguenza tutte queste macchinazioni portano via tempo. A volte giustamente si appiccano fuochi in più punti, ovviamente i pochi mezzi disponibili non ce la fanno e ovviamente tutto va in fumo. A proposito dei pochi mezzi disponibili, si sente spesso dire l'intervento dei volontari della protezione civile, ma sono veramente dei volontari? Cioè, noi affidiamo il nostro territorio a dei volenterosi, non a dei professionisti? Questo è quello che accade lì in costiera? Ma noi dobbiamo dire assolutamente grazie a questi ragazzi, perché lei tenga presente, nella protezione civile locale è grazie a loro che monitorano tutto il paesaggio. Molte volte si trovano, anche aiutate da noi contadini, da cacciatori, ci troviamo a manovrare, a cercare di spegnere con le pale, con motoseghe, cerchiamo di creare delle vie di sbarramento. Dei corridoi, no? In modo che il fuoco non appicchi. Dei corridoi, cioè, ma si lavora soprattutto sui monti lattari, è molto impervio, cioè molto scosceso. Molte volte questi ragazzi rischiano anche la vita per poterci aiutare. E si tratta veramente di volontari? Ma sono sì, per la maggior parte sono tutti volontari, tenga presente i cacciatori, noi contadini che a volte ci mettiamo vicino, perché tutti intorno ai nostri limoniti abbiamo i boschi, quindi noi per difendere i limoniti dobbiamo difendere i boschi. E i danni sono stati ingenti in questo mese di incendio? Quest'anno è un disastro totale, perché abbiamo adesso salva solo una parte della Valle delle Fetide straordinaria, dove c'è una felce glaciale straordinaria, vengono da tutto il mondo per visionarla, c'è un po' del sentiero degli dei che è famosissimo in tutto il mondo, e dobbiamo ringraziare i trekkers, a coloro che fanno Nordic Walking, ai passaggi che stranamente passando tutti i giorni, passando anche a queste ore tarde, riescono a monitorare il passaggio, cioè, a controllare il territorio. Diciamo che ci affidiamo al caso. Certo. Senta, lei ha scelto, lei è un imprenditore del settore dei limoni e quindi lei mette a rischio proprio la sua attività economica, commerciale con questi incendi. Lei ha proposto questa cosa della taglia, di mettere una taglia. Ma io ho usato questo tono forte, in verità l'ho scritto sul mio profilo, poi non so perché è stato ripreso a tamburo battente da tutti i giornali, ma è perché siamo sconfortati, non ce la facciamo più. Più che taglia, io parlerei di un compenso, di un aggio a colui che va, perché noi dobbiamo lavorare con le nostre istituzioni. È ovvio che siamo stati lasciati soli, ma noi questo non è una soluzione, è un qualche cosa, è un grido di allarme. Ma come funzionerebbe? Cioè, perché qua bisogna trovare delle soluzioni. Lei ha fatto questa proposta che ha il merito di essere una proposta concreta. Privati che mettono dei fondi, dei soldi, per incentivare chi denuncia. Io ho chiesto che si diano questi soldi a una Onlus, a un'organizzazione accreditata e che sia credibile e legittimata. Ho chiesto, anche sollecitato l'intervento soprattutto della nostra attività primaria che è il turismo. Io credo che soprattutto i grandi alberghi 5-6 stelle, che anche loro hanno difficoltà perché operano in settore dove noi traiamo vantaggio dal territorio. Io faccio agriturismo, prima di tutto produco limoni, ma anche io faccio turismo e di conseguenza dobbiamo salvaguardare il territorio. Qua è patrimonio dell'UNESCO. Se noi, no, visto che lo Stato ha fallito, perché sta fallendo, però ciò non toglie, noi dobbiamo andare in sinergia con lo Stato, con le istituzioni che ci devono aiutare e che noi dobbiamo aiutare, però a questo punto mettiamo un po' di soldi da parte e cerchiamo di darlo, non lo so. Ma quanto metterebbe lei d'Italia, per esempio, per chi riesce, che ne so, a fotografare un piromane? Ma sarebbe... io credo, ovviamente questo bisogna accertare, una volta accertate e verificate, soprattutto dagli inquirenti, io credo che una taglia si possa mettere anche da 5, da 10, da 20 mila euro, dipende, perché noi dobbiamo salvare... Però non la taglia, non la taglia sulla persona, no, su chi cattura la persona, su chi dà informazioni. Anche un'informazione seria, dettagliata e precisa, si può partire anche dalla 1000 per arrivare alle 20 mila euro, ovviamente se si riesce a prendere la persona... dà di più, ma io pensavo anche addirittura a dare soldi per aiutare la protezione civile, anche con mezzi, anche pagando. Beh, potrebbe diventare un lavoro, uno si mette lì sulla costiera, sui colli e sta lì a guardare, se poi per caso ha la fortuna di vedere un piromano, fortuna perché a quel punto diventa un guadagno per lui, ma no, scherzi a parte, perché qui non è la soluzione del caso questa, io non è che trovo la panacea, ma è che non ce la facciamo più. Questo è il problema. Lei tenga presente che noi stiamo perdendo la macchia mediterranea, stiamo perdendo tutte le piante importanti e gli animali, e per ricostruire questo ci vorranno più di 30 anni. Perché quando poi brucia una pianta matura di limone, poi che succede? Quanto tempo ci vuole per riproporre? I limoni, per fortuna, noi riusciamo sempre a salvarli, però ci sono stati casi, 20 anni fa io ho perso due terrazzamenti. Per impiantare i limoni, per avere una buona produzione, lei deve aspettare dai 15 ai 20 anni. Io non ce l'ho questi tempi, non ce l'ho questa forza di ripartire. Tant'è vero che ho anche scritto che me ne andrò dall'Italia. Ma lei si è informato, Aceto, se l'ipotesi che lei propone di mettere una taglia su chi fornisce sui piromani, da un compenso da dare a chi fornisce informazioni, se sia legale, si può fare in Italia questa cosa qua? Io credo che si possa fare, non le so dire se questo è legittimo o è legale o meno, questo è stato un mio, però ovviamente io intendo andare avanti, anche perché c'è qualche albergatore importante che si è reso disponibile a fare questo. Io non credo che sia illegale dare un regalo, perché qua stiamo parlando di dare un regalo, ovviamente appurate tutte le informazioni, che le origini di queste informazioni siano certe, che i dati siano certi, io non vedo nulla di male di mettere a disposizione una determinata cifra per determinate persone. Credo in bocca al lupo in Costiera Amalfitana. Grazie a Salvatore Aceto, imprenditore della zona del settore dei limoni, avete sentito con la sua proposta di mettere una taglia, di dare una ricompensa a chi denuncia i piromani. Fabrizio da Roma, buonasera. Fabrizio? Eccolo qua, prego. Sì. Senti, io volevo intervenire toccando un po' tutti i punti che abbiamo, diciamo, riparlato oggi, iniziando da Stefano Boeri. Allora, Stefano Boeri si vede che è il fratello di Tito Boeri, perché le sue espressioni sono sullo stesso indirizzo della sinistra che è attualmente buonista, che ci sta in Italia. Allora, se noi mettiamo le barriere di alberi, possiamo mettere qualsiasi cosa, e leviamo le barriere di cemento, leviamo i militari, creiamo un ambiente più carino. No, non ha detto rilevare i militari, attenzione, sì, sennò... Ma rilevare la barriera, lui ha detto anche così, abbelliamo la città, rendiamo questo servizio meno di impatto. Sì. Il problema vero è che è sbagliato il concetto, perché noi stiamo sotto attacco. Quindi levare le barriere, abbellire il ci induce a normalizzare questa situazione, che è una situazione che non è normale. Cioè andare al centro, al cinema, in un posto affollato, adesso sta diventando un problema per tutti quanti. Cioè lei non va nei luoghi affollati, non va più Fabrizio nei luoghi affollati? No, io ci vado, però dico cercare di abbellire, normalizzare la situazione, come non far vedere le foto dei morti dell'attentato, non far vedere le foto degli attentatori, per no, me ma è tutto sono cose sbagliato. Diverse però sono cose diverse, sì, però non stanno vedere... tutte sulla stessa linea, stanno sempre sulla stessa linea di evitare di creare il panico, di evitare di creare, secondo lei bisogna creare bisogna crearlo il panico? No, non bisogna creare, però bisogna capire che siamo in una situazione che non è tranquilla, bisogna capire che ci stiamo sotto attacco, ci sono dei terroristi e ci sta una parte della popolazione irregolare in Italia. Ma per fare cosa? Cioè io mi sveglio la mattina e dico va bene, devo sapere che siamo sotto attacco, quindi vado in Piazza Duomo e trovo i militari. Allora in Piazza Duomo che io mettiamo gli alberi al posto delle barriere. Tendiamo a normalizzare una situazione che non è normale, perché in quel momento ci devono stare, allora ci sono i militari con dei mitra e ci sono delle barriere, a che parole le dobbiamo mettere? Perché per la sicurezza, perché non siamo un paese sicuro, perché abbiamo evitato di mettere le barriere fuori, quindi abbiamo fatto venire milioni di persone con gli sbarchi, visto che non ci sono barriere nel Mediterraneo, abbiamo voluto l'immigrazione, bene. Però questa immigrazione, visto che è una immigrazione non regolamentata, vuol dire che c'è un problema di base. Cioè, combattere il terrorismo non si combatte né con la barriera del Jersey né con l'albero. Va bene, va bene. Grazie Fabrizio, dobbiamo chiudere, c'è il GR. Grazie, a dopo. Si può fare. Se pensate che una volta caduta Raqqa ci potremmo dimenticare dell'ISIS... E se pensate che le battaglie per i diritti di gay e lesbiche in Russia siano affar loro, questo programma non fa per voi. Sono Giampaolo Musumeci. Se invece pensate anche voi che il mondo è troppo piccolo per pensarlo ancora grande, vi aspetto qui, a Nessun Luogo è Lontano. Da lunedì al venerdì alle 16 e tutte le domeniche alle 19.10, qui su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin, nel banco freezer! Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ripeto, sono soggetti altamente pericolosi e vanno mandati via da questo paese perché l'hanno distrutto. Io, se necessario, girerò l'Italia ancora di più la prossima estate di quanto non abbia fatto l'estate scorsa. Ce la metteremo tutta. Ognuno di voi però deve veramente capire che qui è in pericolo l'ordine democratico con questa gentaglia, con questi miserabili. È in pericolo l'ordine democratico e ognuno ha il dovere di assumersi la propria responsabilità. Io ricordo che a febbraio Renzi, uscito sconfitto dal referendum, non aveva nessun incarico, nessun ruolo politico. Ed è un uomo politicamente estremamente pericoloso che di fatto, a colpi di ricatti, ha cercato di sovvertire appunto l'ordine democratico. Eccolo qua, 19:15 minuti. Buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizio insieme con Si può fare fino alle 20:00 24:00 24. Dunque, questo era Ale Di Battista in un video di Battista, tra l'altro in Sicilia in questi giorni per in vista poi delle elezioni regionali. Di Battista tutto campo da Renzi del sovvertitore democratico. Però venerdì, sabato sera, anzi partita Verona-Napoli, sono tornati i cori scimmie scimmie nei confronti dei napoletani. Sentiamoli. Sì! Sì! Sì! Sì! E niente, è così. C'era la formazione, l'elenco dei giocatori del Napoli. Ad ogni giocatore i tifosi del Verona urlavano scimmie, scimmie. Pare, dicono, sembra che sia un'usanza che si fa anche nei confronti di altre squadre. Ma che usanza è? Ma che usanza è? Boh, non lo so. Camilla Vivian, buonasera, benvenuta. Ciao, buonasera. Ciao Camilla. Allora, Camilla è la mamma di un bambino che lei stessa definisce transgender, la cui storia Camilla ha deciso di raccontare a tutti, renderla pubblica, in un blog che si chiama Mio figlio in rosa. Camilla, intanto ti voglio chiedere perché hai deciso di rendere pubblica questa storia, di raccontare questa che è una storia privata, la storia della crescita di tuo figlio. Ma l'ho fatto per un motivo prettamente personale, nel senso che io sono anni appunto che vedo mio figlio che cresce con questa predilezione per tutto quello che appartiene al mondo femminile. Però in Italia non trovavo nessun tipo di informazione, non trovavo nessuna famiglia come me, mentre cercando all'estero c'erano moltissime famiglie, c'erano mamme che avevano aperto dei blog in cui raccontavano la loro storia per mettersi a disposizione anche degli altri, per poter avere informazioni, per confrontarsi così. Quindi alla fine, dopo anni di disperazione, di solitudine, e così ho detto va bene, vediamo se mi esco. Cioè io continuavo a sperare ci fosse qualcuno in Italia. Non invece lo trovo mai, forse eri tu. Ho detto, va bene. Forse eri tu la persona detto, che vedo che succede che lo faccio io. Quando dici, Camilla, che tuo figlio avrà predilezione per tutto ciò che è femminile, che cosa intendi? Intendo, cioè lui è la versione femminile di quella che verrebbe definita la femmina maschiaccio. La femmina maschiaccio passa inosservata, no? E viene lasciata fare. Il maschio non può. Beh, mia per figlia cui... Viola, ogni tanto io, noi la, scherziamo, la definiamo così, perché le piace correre, arrampicarsi, giocare anche con i maschi, quindi è un po' il prototipo, mia figlia Viola, 6 anni. Ecco. Però c'è qualcosa che... perché sei arrivata ad usare questa parola, transgender, che normalmente riguarda la sessualità? Allora, sono arrivata a usarla, no? tipo adesso, perché prima mi metteva l'ansia, perché ovviamente io ho 46 anni, per me, nella mia testa, la parola transgender, transessuale, eccetera, eccetera, rievoca tutta una serie di cose come quello che rievoca, diciamo, a tutti, no? E piano piano, crescendo con mio figlio e mettendomi a studiare, a capire, a leggere le altre storie, in realtà ho capito che le persone transgender, come le persone anche transessuali, sono persone come tutte le altre, ma... o nascono biologicamente di un sesso, però poi in realtà si sentono di appartenere al sesso opposto, oppure hanno questa varianza di genere, per cui in realtà appartengono a questa immensa zona grigia che c'è tra il maschile e il femminile. Quindi per questo transgender, perché ricordiamolo, questa parola delinea una persona il cui orientamento sessuale è in passaggio, no? Ma non è un orientamento sessuale. È quello che deve essere molto chiaro, l'identità sessuale. L'identità sessuale è da chi siamo attratti, no? Sì. L'identità è chi ci sentiamo. Cioè, un orientamento sessuale è quando poi dopo uno cresce e si è attratto dagli uomini, dalle donne, da tutti e due, no? L'identità è cioè esiste un sesso psichico e un sesso fisico. Sì. E capita a volte che non corrispondano, ma fondamentalmente è tutta una sovrastruttura della società, nel senso che ci si aspetta che chi nasce biologicamente maschio appartenga allo stereotipo che la società si aspetta e che femmina idem. Mentre le donne vengono lasciate comunque esplorare, i maschi fin da piccoli, diciamo, hanno questa sfortuna di essere incastrati ancora di più nello stereotipo. Ma perché però la tu hai... non c'entra niente. Perché però tu hai pensato in questa che è l'esplorazione di un bambino che sta crescendo, di arrivare ad usare questa espressione transgender, ripeto, che ha a che fare con una parte della personalità che si sviluppa normalmente da più da adulti, l'identità sessuale, no? Invece tu già adesso riconosci in tuo figlio questa diversa identità perché sessuale. Appunto, no, perché l'identità, cioè tu sei nato maschio e ti sei sentito maschio da quando eri piccolino, no? Perché non c'entra niente la sessualità, c'entra come ti senti tu, per cui quando vedi che, cioè se tua figlia, contiene detto che ha tua figlia? Sei anni. Ecco, se lei a un certo punto, oltre che arrampicarsi e fare giochi, diciamo, sì, che la società si aspetta che siano da maschio, sì, ti comincia a dire, papà, ma perché io non sono nata maschio? Ma perché io, quando è che mi crescerà il pisello? No? Certo, queste sono le domande al contrario che ti fa tuo figlio. No? Ecco, quando incominciano a farti delle cose un po' più così, in più ti senti il coro delle persone intorno che ti dicono che tuo figlio c'ha un problema e tu vedi che tuo figlio è un bambino assolutamente sereno, felice, se lo lasci essere quello che lui si sente di essere, ti viene da, almeno a me mi è venuto da cercare informazioni, capire che cosa ci potesse essere. E non ha mai pensato di rivolgerti per esempio a uno psicologo dell'età infantile, per esempio? No, perché era un bambino sereno, cioè ci sono andato una volta, ma perché sotto consiglio di una maestra del nido, perché lui ha cominciato da quando era piccolissimo, che mi diceva che lui era così perché io gli lasciavo guardare i cartoni animati delle principesse e gli facevo indossare i vestitini a casa, no? E siccome insieme avevo le amiche pure, credo. Sì, no? Allora a un certo punto ho detto, sai che c'è, ci vado, perché comunque dico magari sto sbagliando, io mi sentivo che stavo facendo bene, però ho detto vediamo che cosa mi dice una esperta, tra virgolette. L'esperto ovviamente mi ha confermato che io stavo facendo bene a lasciarlo libero di sentirsi quello che si sentiva di essere. Non mi ha minimamente nominato l'identità di genere, per cui ancora io al tempo non sapevo assolutamente niente di che cosa fosse, cioè sì, per me i maschi nascevano maschi, femmine, punto. Ero molto semplice e binaria, come si dice adesso, no? Senti, ma tuo figlio sa che è d'accordo, intanto chiedono alcuni ascoltatori sul fatto, è consapevole del fatto che tu parli di lui in questo blog e ne parli pubblicamente? L'abbiamo deciso insieme, perché lui ha sempre sentito molto il peso degli altri, che gli chiedono sempre ma perché ti vesti da femmina, ma perché c'hai i capelli lunghi, ma perché, no? E lui che risposte dà a queste domande? Io fin da piccolino gli ho sempre insegnato a rispondere tu, di agli altri, che ognuno ha i suoi gusti, che se il tuo amico gli piace Spider-Man, a te ti piace la Sirenetta. E i bambini gli è sempre bastato così, non hanno mai, ok, per cui andava bene, perché poi i bambini sono semplici, siamo noi che poi li scriviamo in un certo modo. Certo, questo sì, ma tu immagini poi per tuo figlio crescendo che ci siano degli ulteriori passaggi, cioè ti immagini come sarà da grande? Io non ho la più pallida idea, anche perché è una cosa talmente in divenire. Non, onestamente, cioè io seguo lui. Io poi dopo ho parlato con altri psicologi, lui ha fatto un percorso di valutazione per vedere, perché tutto questo si potrebbe chiamare disforia di genere, no? Però il percorso che ha fatto lui dice che lui non soffre di disforia di genere, ma che ha un'identità di genere atipica. Poi però da lì ci si scatenano, almeno a me, tutta una serie di domande, tipo ma atipico per chi? No? Cioè chi è transgender? Allora le donne sono transgender perché si mettono i pantaloni? Cioè in Scozia gli scozzesi sono transgender perché tre quarti della popolazione mondiale si veste, certo, con i ci sono tutta una serie di stereotipi, no? Che di per questo sé non identificano niente. Ma ti stupiresti se tuo figlio da grande, come dire, tornasse in qualche modo ad essere quello che, cioè la sua identità sessuale tornasse a coincidere quello che pensa di sé con quello che è, cioè un maschio? Ti stupirebbe questo? Io festeggio, ovviamente, nel senso, se arriva e mi dice mamma sono maschio, io sono felice, ma non perché non lo accetterei, transgender o transessuale, ma perché ovviamente, cioè, inutile che ci prendiamo in giro, la vita di una persona transgender e transessuale non è semplicissima, sarebbe un percorso difficile. È più complessa, sicuramente sì. No? E tu infatti per hai scelto di andare in Spagna proprio per questo, perché dici che questa condizione in Italia non avresti potuto viverla in maniera così semplice, facile, invece in Spagna sì. Da tanti anni che volevo venire in Spagna, a prescindere da questa cosa. Mia sorella vive qui da tanti anni e vedo che la vita è molto meglio. Sicuramente iscriverli al centro estivo e sentirmi dire dal preside della scuola, signora, non si preoccupi, perché ovviamente ci sono andata a parlare, no? E lui mi ha detto, io mi aspettavo, cioè, ero agitata come quando ne parlo in Italia con qualcuno di qualche istituzione, no? Per cui mi sento sempre chi mi dice ma stai attenta a parlarne, che magari ti mandano gli assistenti sociali a casa perché, che ne so, e ti creano dei problemi. Qui sono andata con la stessa ansia dal preside e il preside mi ha detto, signora guardi, mi ha tirato fuori la legge dicendo suo figlio qui è protetto, può essere quello che lui si sente di essere finché non capisce chi è, anche se non lo capisce mai, sì. Se vuole andare nel bagno delle femmine ci può andare, si può spogliare nello spogliatoio delle femmine, nella squadra dello sport che vuole fare, può giocare nella squadra delle femmine. Dice, se qualcuno dice qualcosa è perché non conosce la gente, allora sta a noi come istituzione insegnargliela. Ma in Italia sono dici, rimasta così. Sì, non sarebbe la stessa cosa in Italia. Adesso è stata appena approvata per esempio la legge sulle unioni civili qualche mese fa. Sì. All'epoca si sono letti molti sondaggi, la maggioranza degli italiani sono stati favorevoli a questo passaggio, a questa apertura, nonostante alcune polemiche. Però pensi che invece in Italia ci sia un'arretratezza da questo punto di vista, più che in Spagna? In Italia non si sa neanche cosa sia l'identità di genere. Cioè, in Italia non esiste. Io le famiglie che ho conosciuto tramite il mio blog non sanno neanche a chi rivolgersi per chiarirsi le idee. I padri soprattutto sono in crisi. E si sentono completamente, sì, ci sono alcuni centri, però in tutta Italia saranno 5, non sai proprio che cosa fare, neanche tu come genitore. E sono molti quelli ancora che le scuole. Sì, sono molti quelli che ti scrivono sul blog per avere consigli su come fare, come comportarsi di fronte a figli che hanno questo tipo di identità sessuale, come è accaduto a tuo figlio? Sono molti? Io ho aperto il blog adesso proprio da un anno, in questi giorni è un anno, e di famiglie con bambini piccoli, intendo tipo dagli 11 anni in giù, mi avranno scritto una trentina di persone. L'anno scorso ero solo io. Quindi quello che mi dico io è, se una come me, senza arte né parte, apre un blog e parla della propria storia e trova queste persone, ma perché le istituzioni non incominciano a fare un po' di informazione fatta un pochino meglio, in modo tale che queste persone non si sentano, cioè non dobbiamo dimenticarci, secondo me è nostro dovere informare, perché questi ragazzini quando crescono ovviamente vanno in crisi con l'adolescenza, l'inizio del cambiamento del corpo, no? Il 43% tenta il suicidio, secondo me questo rende questa cosa, cioè un dovere di tutti i cittadini di cominciare a parlarne. Tuo figlio però oggi è sereno, al momento oggi ha 9 anni, è sereno. Ma mio figlio è sereno. Preadolescente. Sì. Ovviamente quelli che non sono accettati, e i bambini invece che sono accettati come in tanti paesi del mondo e che vengono seguiti così non hanno nessun tipo di problema. Ma pensi mai che qualcosa che c'è stato nella relazione con voi genitori, qualcosa che è passato nell'educazione, tipo l'assenza del padre che l'abbia ecco per esempio qui, possa avere i pensieri moderni? No, assolutamente non. Ovviamente tutte queste domande che si fa la gente me le sono fatte tutte pure io. sia i dubbi che la gente comune ha, ce l'ho avuti anch'io, pure di più, visto che si tratta di mio figlio. Ho analizzato tutto quello che ci poteva essere, ho letto decine di libri, non c'entra assolutamente niente. Cioè, mio figlio è nato, che io e mio marito eravamo sposati, stavamo bene, e lui a un anno e mezzo vedeva Cenerentola e diceva: io sono lei. Per cui, cioè, nascono così, cioè, si nasce così. Certo. Solo che sono esposti loro, capito? Siccome danno nell'occhio, perché un bambino che si mette il vestitino dà nell'occhio, loro hanno una persona, un'identità che è da subito esposta al prossimo. Quello che io o te facciamo nella nostra vita privata, gli altri non lo sanno. Ma se andassimo veramente, se tutti fossimo messi a nudo sotto i riflettori, come sono questi bambini, sai quante cose verrebbero fuori di tutti quanti? Assolutamente, questo sì. Grazie Camilla Viviane, grazie per essere stata con noi, per averci raccontato questa che è la sua storia, la storia di suo figlio, 9 anni, che lei stessa definisce transgender. Lei tutto questo lo racconta in un blog che si chiama Mio figlio in rosa. 800 24 00 24, torniamo dopo la borsa tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Andiamo con Paola che ci chiama da Roma. Paola, benvenuta. Buonasera. Sì, ciao, buonasera. Ciao. Niente, allora, vabbè, come ho detto alla persona che ho contattato, io sono una persona cosiddetta scrivibile a questa categoria transessuale, transgender, anche se è chiaro che per me sono una donna di un tipo diverso, ma questo è un fatto relativamente importante. Diversamente donna? Beh, ci possono essere diversi tipi di donna, diciamo, ecco, magari si può pensare questo, ecco. Ma questo, che ne pensi della storia del figlio di Camilla? È molto importante questa storia, è molto importante. Prima di tutto ci sono dei centri a Roma, io l'ho recitato, il centro del SciFit, che segue anche questi bambini, che io ho seguito, che in cui c'è tutto un percorso medico, diciamo, previsto dalla sanità pubblica. In cui ci sono diagnosi. A che età però è cominciato questo percorso, Paola? Io il mio percorso è iniziato piuttosto tardi, diciamo intorno ai 30 anni, anche se ovviamente c'è tutta una storia dell'infanzia particolare. Però 9 anni non sono pochi, perché il dubbio a Camilla glielo abbiamo chiesto, è che 9 anni, ma questa storia è cominciata anche prima, fin da piccolissimo, il figlio, 1, 2, 3, 4 anni. E lei ha cominciato. Sì, sì, è esattamente così. Cioè, secondo te, diciamo, è giusto? No, non è che si tratta di giusto o sbagliato, si tratta ovviamente di infanzia, quindi di avere tutte le attenzioni del caso e di non proiettare le proprie cose né in una direzione né nell'altra, quindi non è per niente facile. Ci sono però degli specialisti in Italia anche che operano con qualche difficoltà, che sono in grado di discernere gradualmente se si tratta di un disturbo, come lo citava la signora, che è codificato nella psichiatria e si chiama disforia di genere, oppure no. In quel caso la disforia di genere, no? In quel caso che cosa vuol dire? Che è come un disturbo in qualche modo che può rientrare? La disforia di genere è una cosa, una volta due è una diagnosi, il percorso è prefissato e non c'è alternativa, perché l'identità di genere, che è diversa dall'orientamento sessuale, questo la gente è molto importante quello che capisca. Ah, io ho sbagliato. Si firma, ma è comune, si fissa verso un anno e mezzo, due, e questi bambini, e io stessa, io ho resistito a lungo perché volevo una vita, tuttora la voglio, sono riuscita anche a ottenerla, una vita assolutamente normale, tranquilla, al di fuori di certi meccanismi, che però non è facile, bisogna combattere, e si ha paura ovviamente, quindi ci sono delle resistenze che uno mette in atto, ma ti assicuro che alla fine, diciamo, per il proprio benessere fisico e psicologico soprattutto, è necessario assolutamente fare il percorso in certe situazioni che vengono diagnosticate dai medici. Una delle caratteristiche principali importanti di queste diagnosi riguardano il fatto che loro si accertano attraverso, sono tre mesi di test, sì, e compagnia bella, non è una cosa così, che non ci siano scopi, cioè qualcosa che uno si propone di fare, per esempio voglio sposarmi o voglio avere una certa tipo di attività, sì, che non sia una strategia aspetto, messa in atto dal bambino per ottenere un qualcos'altro. Ma Paola, secondo te un bambino come il figlio di Camilla è destinato a, crescendo a, tu hai fatto sei stata operata? Io no, non sono stata operata perché è stata una scelta mia, perché preferisco mantenermi in perfetta salute perché devo crescere una figlia, quindi è una questione, avrei voluto sì, però comunque. Ma è vero che in Italia, perché lei è andata in Spagna, Camilla, perché sì, dice che lì ci sono meno pregiudizi fondamentalmente e sì, meno di quelli che ci sono in Italia. Diciamo che in Italia non è che io per esempio lavoro in ufficio, ho avuto ho qualche difficoltà, magari è capitato qualche colloquio in cui qualcuno ha reagito con questo schema per cui si associa a attività sessuali, che effettivamente è molto fastidioso, perché ho persone invece che sono più aperte. Ci sono alcune aziende che anche stanno sviluppando, come sta succedendo in tutto il mondo, diciamo, una particolare attenzione per la diversità. Per ma tu quando eri quando eri bambino, che i tuoi genitori ti hanno assecondato, cioè secondo te è stato giusto che la mamma di questo bambino assecondi, intervenga, interagisca dal punto di vista dell'identità sessuale di questo bambino o no? Sono, per la mia sensibilità e esperienza, per come ho sentito la signora sta diciamo affrontando in maniera consapevole una letteratura che c'è medica sul caso, su queste casistiche, anche ha accennato che ha sentito una serie anche di specialisti, che è estremamente importante in queste cose, e penso che la signora ha deciso così perché lei effettivamente, diciamo, gli atti discriminatori anche gravi ci sono tuttora, cioè lei capisce che una persona adulta che si presenta in un cervello e viene associata a un certo tipo di sessualità o un certo tipo, è una cosa già difficile, no? Ecco, si immagini un bambino, quindi bisogna che la signora sta cercando di far emergere secondo me una certa cosa, e penso e spero che sia una cosa che diciamo per cui loro sono seguiti e sono in qualche modo, il bambino ovviamente non subisca proiezioni da parte di adulti. Va bene, grazie Paola, grazie, buona serata, grazie. Federico da Padova, Federico, vai. Sono in linea? Sì, sei in linea Federico. Buonasera, grazie per la chiamata. Vai. Io mi scuso, torno un attimo indietro al discorso degli incendiari, a proposito, chiamiamoli incendiari perché non sono piromani, sono incendiari. Allora, per dire che noi, secondo me, e questo in generale non solo per quanto riguarda gli incendi, abbiamo la tendenza a deludere il problema principale, quindi cerchiamo delle soluzioni come le taglie, le telecamere, oppure si dice fare più controlli, che però non servono a niente. Il problema fondamentale è che in Italia non c'è un sistema sanzionatorio che faccia paura. Se questi incendiari, che ogni tanto vengono arrestati, qualcuno l'hanno arrestato, avessero subito un processo per direttissima e fossero stati condannati a 20 anni di carcere, io sono convinto che il numero degli incendi sarebbe crollato nelle settimane successive. Il problema è che loro sanno benissimo che finirà o in prescrizione, tutto in Italia finisce in prescrizione, o con 6 mesi con la condizionale. Se noi non risolviamo questo problema, quindi tutte queste energie che spendiamo, appunto le taglie delle gambe, per correggere il sistema, per fare delle pene severe, esemplari, che facciano paura ai malfattori, tutto è inutile. Io dico soltanto una notizia, se posso. Che, quanti sanno, quanti ascoltatori sanno, ad esempio, che in Italia un anno di carcere sono 7 mesi. Se sente in telegiornale uno che è stato condannato a 5 anni, non è 12 per 5, ma è 7 per 5, quindi sono 36 mesi e esce fuori. Va bene Renato, grazie, buona serata. Andiamo con Pierpaolo da Cagliari, benvenuto. Salve, buonasera. Io ho chiamato per una puntualizzazione. Io faccio parte della protezione civile. Sì. E sinceramente mi ha fatto un po' stizza sentire i risolini del ma sono veramente volontari. Il volontariato nella protezione civile è veramente volontariato. Sì, no, ma guardi, non erano risolini, era una domanda la mia, una domanda. Sì, però una domanda diciamo preoccupata, che, mettiamola così, diciamo per Paolo. Perché quando si dice i volontari della protezione civile, io mi sono spesso domandato se veramente si tratta di volontari, nel senso che stiamo affidando praticamente una cosa importante come lo spegnimento degli incendi a dei volontari, non a dei corpi organizzati, attrezzati e pagati. Era questa la domanda. Una domanda preoccupata, non era una sottile ironia, ecco, non era questo. Questa ironia l'ho colta anche perché io, no, Alessio, Maurizi, sì. Alessio Maurizi lo ascolto sempre e comunque, no? Il sabato e la domenica, quindi 24 sempre, tutti i giorni. Ecco, appunto. E quindi ho sentito questa leggera ironia. Ma scusi Pierpaolo, quindi ho capito bene, lei l'ha fatto? No, io faccio parte di un'associazione di volontariato che ha fatto, 23-24 sbarchi migranti a Cagliari, che si occupa di un territorio vastissimo, perché ci sono dei territori che sono abbastanza vasti. La domanda vera da farsi è cosa succederebbe se non ci foste voi a fare tutto quello che fate, che naturalmente è ultra meritorio, però probabilmente sarebbe ancora peggio. Però ci sono anche i forestali, ci sono i vigili del fuoco, poi i volontari vanno in affiancamento. Forestali c'erano forse, perché non è un corpo che è stato assorbito nei carabinieri, adesso però non vorrei riaprire. Qui in Sardegna ci sono comunque, sì. Logicamente vanno in affiancamento ai vigili del fuoco o ai forestali. Il problema vero della protezione civile è che praticamente è stata equiparata a delle aziende per quanto riguarda le scartoffie, non c'è assolutamente niente per i volontari, non si possono fare nemmeno dei rimborsi di carburante. Quindi voi non avete niente, cioè assolutamente zero, zero, zero. Se io faccio qualche spesa la faccio, punto. Perché prima potevo andare ad acquistare del materiale, presentavo in associazione, sì, l'eventuale fattura, l'eventuale scontrino, e mi veniva rimborsato, e poi a sua volta veniva rimborsato. Adesso non più. Adesso non è più possibile. Se non si va con la carta dell'associazione, con la carta di credito, il pagamento deve essere tracciato, anche se sono tempi di magra anche per i volontari della Protezione Civile. Pierpaolo, io la voglio ringraziare a nome mio, ma anche di altri italiani, per quello che fate, e grazie quindi. Alberto da Bologna. Sì, Alberto, pronto? Buonasera, benvenuto. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Io volevo tornare un attimo indietro sul discorso del terrorismo, se possibile. Sì, sì. Un'ora fa. Allora, io volevo dire che sono d'accordo con un paio di ascoltatori che avevano chiamato prima. Quindi, finché noi non ci rendiamo conto che siamo già in guerra, e per noi intendo noi europei occidentali, dobbiamo renderci conto che siamo già in guerra, e i nostri stati devono rendersi conto di questo e fare una scelta conscia e coscienziosa di entrare in guerra, combattere questa guerra. Ma contro chi? Il problema è questo. Contro il terrorismo. Quindi ci sono vari modi. Già avvenne in passato con il terrorismo, non è una guerra, non è una vera e propria guerra, è diverso. Ma non c'è un nemico con una divisa. Si sta tramutando, vede. Noi spendiamo moltissimi soldi a cercare di distinguere quali sono i terroristi, o meglio, quali sono gli islamici buoni, moderati, da quelli che sono i terroristi. Invece sono tutti un calderone, sì. Una cosa in comune, sono tutti islamici. Quindi, diciamo questo, islamico sia nato in Inghilterra, in Spagna, in Germania, in Francia, loro non sono francesi, spagnoli, inglesi, sono prima di tutto islamici, appartengono alla nazione Islam, no? Quindi, come appartenenti alla nazione Islam, dovrebbero essere loro messi in condizioni tali di, fare una cernita tra di loro di quelli che sono quegli elementi da isolare. Quindi, se io vedo che tutti gli attentati ultimamente sono stati fatti però vedi che già non stiamo più parlando di guerra, ma stiamo parlando di altro, no, Alberto? Chiamiamola di intelligence, di prevenzione, di mettere degli infiltrati, e questo è quello che si può fare. Non è che si può fare una guerra, almeno io credo, se bisognerebbe intanto dire contro chi quando si parla di guerra, però questo poi non è dato saperlo, Alberto. Questo, facciamo così un'ipotesi, se noi smettessimo di dare mezzi a noleggio alle persone islamiche. Se allora noi smettessimo di dare mezzi a noleggio a tutti gli islamici. Mezzi a noleggio, cioè se sei islamico non puoi più noleggiare un mezzo, no? cosa succede? Che discorso grande, grande insurrezione popolare, ma no, grande insurrezione, sarebbe una follia. In Italia ci sono milioni di islamici e non cosa facciamo? E allora, sono persone civili per bene che fanno una vita normale come la tua e la mia. Questi milioni di islamici allora dovranno fare in modo che quelle teste calde isolate che stanno rovinando a loro la vita non facciano più quello che stanno facendo, no? Perché solo loro possono andare a farlo, solo loro hanno quell'accesso. Questo è vero, questo è vero, che la denuncia all'interno dei gruppi, delle moschee, esatto. Questo deve aumentare, questo deve essere succede. Fatto. Quindi o noi andiamo a creare degli svantaggi anche per gli islamici cosiddetti moderati, per le brave persone, tali da fare in modo che questi stessi personaggi vadano a prendere i loro terroristi e li facciano fuori, tra virgolette, no? Se no non si arriverà mai a capo, perché loro non sono mai responsabili di nulla. Quando succede qualcosa sono delle teste calde isolate. Ma scusami, è giusto che a pagare per un atto commesso da un terrorista islamico sia un cittadino islamico che non c'entra nulla col terrorismo solo perché è islamico? Deve pagarla lui? Allora potrei pagarla anche io perché abitavo nello stesso quartiere e non ho vigilato. Che vuol purtroppo, dire? Ma purtroppo il punto c'è una verità, poi mettetela come volete. La verità è che il punto in comune di tutti questi attacchi è che sono islamici. Poi io ho viaggiato tantissimo, viaggio per lavoro, quindi conosco molte culture, eccetera. Non sono leghista, non sono fascista, ho amici di tutti i colori, di tutti i tipi. Però mi rendo conto che noi non potremo mai prevenire questi attacchi di terrorismo, perché è troppo complicato. Non possiamo avere 007 ovunque. Per quanti ne mettiamo, per quante barriere mettiamo, non sarà mai possibile. Se loro vogliono attaccarci, è possibile, attaccano. Però il tuo ragionamento, Alberto, è come se io dicessi: gli ultimi 3 premi Nobel della fisica sono tutti americani, allora tutti gli americani sono premi Nobel della fisica. Questo è quello che hai detto. E come dobbiamo definire? Non torna, dai, non torna. Non è proprio così. È quello che diciamo hai detto. Diciamo che il punto in comune è che sono islamici. Loro devono prendersi le loro responsabilità e devono fare in modo che appartenenti alla loro diciamo fazione religiosa, chiamiamola come volete, smettano di fare questi atti, perché questo porta svantaggi prima di loro a loro stessi. Va bene, Alberto, va bene, abbiamo capito, devo dare la linea al traffico, siamo già in ritardo, a tra poco. Prendiamo le 2 di F35, così ne prendiamo 40. Ciao Giampiero, buona serata, devo chiudere. Ci sentiamo domani con Si può fare 18:20. Ciao, buona serata, ciao a tutti.